Lei, come buon cattolico, egli osservò, a proposito del corpo e dell'anima, certo crede nell'anima, oppure la intende come l'intelligenza, la forza del cervello in quanto tale, distinta da ogni altro oggetto esterno, il tavolo, poniamo, o quella tazza. Anch'io ci credo, perché la cosa è stata spiegata da persone competenti con le circonvoluzioni della materia grigia. Altrimenti non avremmo mai avuto invenzioni, come ad esempio i raggi X. Non crede? Messo così, con le spalle al muro, Steven dovette fare un sovrumano sforzo di memoria per tentare di concentrarsi e ricordare prima di poter dire: mi si dice da fonte autorevolissima che è una sostanza semplice e pertanto incorruttibile. Sarebbe immortale, mi risulta, se si accettua la possibilità di un suo annientamento da parte della sua causa prima, la quale, per quanto possa saperne, è in grado di aggiungere questo al numero di tutti gli altri suoi scherzi di cattivo genere. La corruptio per sé e la corruptio per accidens, essendo entrambe escluse dall'etichetta di corte. Mr. Bloom convenne completamente con il succo del ragionamento, per quanto la finesse mistica in esso implicita fosse un tantino al di là della sua comprensione sublunare, e tuttavia non poté fare a meno di avanzare un'obiezione al riguardo di quel semplice, soggiungendo prontamente: semplice? Non oserei dire che sia la parola più appropriata. Naturalmente, ne convengo, per farle una concessione, ci si imbatte in un'anima semplice una volta ogni morte di papa. Ma ciò a cui mi tarda ad arrivare è questo: una cosa è, per esempio, inventare quei raggi come Rankine, o il telescopio come Edison, per quanto mi pare sia stato uno prima di lui, Galileo, volevo dire, e lo stesso vale per le leggi, per esempio, di un fenomeno naturale di vasta portata, quale l'elettricità. Ma è tutto un altro par di maniche il dire che si crede nell'esistenza di un Dio soprannaturale. Ma questo, ribatté animatamente Steven, è stato definitivamente provato dai brani più noti delle sacre scritture, per tacere delle prove circostanziali. Su questo punto spinoso, le opinioni della coppia, essendo essi agli antipodi, sia quanto a preparazione culturale, sia per ogni altra cosa, con l'aggiunta della notevole differenza delle loro rispettive età, vennero a cozzare. Provato, obiettò il più ricco d'esperienza dei due, mantenendosi sulle sue posizioni, con un sorriso di incredulità. Non ne sono poi tanto sicuro. È questione d'opinione individuale. E senza mettermi da un punto di vista settario, mi permetto di differire in toto da lei sulla questione. Il mio pensiero in merito, per dirle tutta la verità, è che quei suoi frammenti sono con ogni probabilità degli autentici falsi inseriti tutti quanti dai monaci, altrimenti si torna alla gran questione del nostro poeta nazionale: chi esattamente ne è l'autore, come Amleto e Bacone? Ma ella conosce certo il suo Shakespeare meglio di me. E non è certo il caso che le insegni io. Perché non prendo il caffè a proposito? Glielo rimescolo io. Lei prenda un pezzo di quel maritozzo. È una specie di galletta da marinai travestita. Però uno non può dare più di quel che ha. Ne assaggio un pezzetto. Non mi va, arrivò ad articolare Steven, rifiutandosi i suoi organi mentali, per il momento, di reggere ulteriormente. Il criticare, essendo proverbialmente una magra speculazione, Mr. Bloom pensò bene di rimescolare, o almeno tentar di farlo, lo zucchero agrumato sul fondo, e rifletté, non senza un'ombra di acrimonia, alla casa del caffè e alla sua iniziativa di temperanza e di lucro. Per certo l'intento era legittimo, e senza possibilità di contestazione era stato fatto un monte di bene. Rifugi come il presente venivano organizzati con spirito antialcolico, per nottambuli, nonché concerti, rappresentazioni di filodrammatici, conferenze istruttive, ingresso libero, tenute da persone qualificate a uso delle classi inferiori. D'altra parte aveva un distinto e doloroso ricordo di una modestissima remunerazione corrisposta a sua moglie, la signora Marion Tweedy, che ne era stata viva parte per qualche tempo, per le sue prestazioni al pianoforte. L'idea, come era fortemente incline a credere, era quella di far del bene e di impinguare la cassa, non essendoci concorrenza degna del nome. Era stato trovato del veleno di solfato di rame SO4 o qualcosa del genere, ricordava di aver letto, in un piatto di piselli secchi in una trattoria a buon mercato da qualche parte, ma non si ricordava né quando né come. Comunque il controllo medico di tutti i commestibili, gli sembrava più che mai necessario, il che era un probabile motivo della voga del V-cacao del dottor Tibol per via della clusa analisi medica. Ne butti giù un sorso adesso, s'arrischiò a dire alludendo al caffè dopo la rimescolatura. In quel modo sollecitato a comunque gustarne, Steven sollevò per il manico il pesante recipiente, staccandolo con uno schiocco dalla pozzanghera bruna, e sorbì un sorso del repellente beveraggio. Comunque qualcosa di solido, insisté il suo buon genio. Io sono sempre stato sostenitore del cibo solido, la sua sola ed unica ragione essendo non già la soddisfazione della ghiottoneria, ma la consumazione di pasti regolari come premessa sine qua non di ogni normale lavoro, mentale o manuale. Ella dovrebbe mangiare un po' di più di alimenti solidi. Si sentirebbe un altro. I liquidi, sì, mi vanno, disse Steven. Ma voglia usarmi la cortesia di levare quel coltello. Non sopporto la vista della punta. Mi ricorda la storia romana. Mister Bloom fece prontamente come suggeritogli e rimosse l'arnese incriminato, un comune coltello smussato col manico di corno con niente assolutamente di romano o di antico per un occhio profano, rilevando che la punta era il punto meno evidente di esso. Le storie del nostro comune amico sono proprio come lui a proposito di coltelli, osservò Mister Bloom al suo confidente sottovoce. Crede ella che siano autentiche? Potrebbe sfornarne per ore ed ore tutta la notte e sballarne di grosse. Ma guardi un po'. Eppure, nonostante i suoi occhi fossero ispessiti dal sonno e dall'aria di mare, la vita era sempre piena di una legione di cose e di coincidenze di natura terribile, e non esorbitava affatto dai limiti della possibilità il fatto che tutto ciò non fosse inventato di sana pianta. Per quanto di primo acchito non ci fossero probabilità intrinseche che tutta quella filza di baggianate che andava ventilando fosse esattamente verità di Vangelo. Nel frattempo, egli era venuto facendo un inventario vero e proprio dell'individuo a lui di fronte e sherlockolmizzandolo fin dal primo momento che gli era capitato sotto gli occhi. Per quanto uomo ben conservato di eccezionale vigoria, seppur lievemente incline alla calvizie, c'era qualcosa di spurio nel suo aspetto, che suggeriva il suo essere uscito di Gattabuia, e non ci voleva certo un gran volo di fantasia per associare quel sinistro campione con la confraternita del pane e acqua e del sole a scacchi. Forse anche era stato lui a far fuori il suo uomo, supponendo fosse suo il caso di cui aveva parlato, come spesso si fa attribuendolo ad altri, e cioè che lo avesse ucciso lui stesso e si fosse fatto i suoi 4-5 begli anni al fresco per tacere del personaggio rispondente al nome di Antonio, nessun rapporto col personaggio drammatico suo omonimo uscito dalla penna del nostro poeta nazionale, che aveva espiato i suoi crimini nella maniera drammatica anzidetta. D'altra parte poteva anche darsi che egli le sballasse grosse, debolezza comprensibile, perché l'incontrare classici babbei, cittadini di Dublino, come quei fiaccherai assetati di notizie dall'estero, indurrebbe in tentazione qualsiasi vecchio marinaio che corra gli oceani a raccontarne di belle circa la goletta Hesperus, eccetera. E si dica pure quel che si vuole, le bugie che uno può dire di sé non sono probabilmente degne neppure di legare i lacci delle proverbiali scarpe alle balle enormi che gli altri coniano su di lui. E badi, non dico che sia tutto pura invenzione, disse riprendendo il discorso. Ci si imbatte di quando in quando, se non proprio di sovente, in scene analoghe. I giganti, però, Ce ne vuole per incontrarne uno una volta ogni tanto. Marcella, la nana regina. A quel museo delle cere in Henry Street ho visto coi miei occhi degli azechi, come li chiamano, seduti con le gambe incrociate. Non avrebbero potuto stenderle neanche a pagarli, perché i muscoli qui, vede, proseguì tracciando il contorno sul suo compagno, i tendini, o li chiami come vuole, dietro il ginocchio destro, si erano del tutto atrofizzati a forza di rimanere così contratti in quella posizione, mentre li adoravano come dei. Ecco un altro esempio di anime semplici. Comunque, per tornare all'amico Sinbad e alle sue orrifiche avventure, che gli richiamavano un po' a mente Ludwig, alias Ludwig, quando calcava il palcoscenico del Gaiety, quando Michael Gunn era uno degli impresari con l'olandese volante, un successo formidabile, e il suo stuolo di ammiratori correva a frotte, tutti affollandosi per sentirlo, per quanto i vascelli, fantasmi o meno, di solito siano un disastro sulla scena, come i treni del resto. Non c'era poi niente di assolutamente incredibile. Lo ammetteva. Al contrario, quella stilettata nella schiena faceva molto italiano, per quanto a voler essere sinceri, egli fosse dispostissimo ad ammettere che quei gelatieri e friggitori di pescheria, per tacere poi di quei friggitori di patatine, eccetera, nella piccola Italia di quassù, vicino a Coombe, erano persone sobrie, parche e lavoratrici. Forse un po' troppo dediti alla persecuzione notturna dell'altrui necessario ma innocuo animale della specie felina, onde ricavarne una buona succulenta mangiata con l'aglio de rigueur il giorno dopo alla chetichella, e aggiunse a buon mercato. Gli spagnoli, per esempio, continuò, di temperamento passionale come sono, impetuosi come il diavolo in persona, sono inclini a farsi giustizia da sé. E ti saldano i conti per direttissima con quei pugnali che portano nella pancia. Dipende dal gran calore, il clima in generale. Mia moglie è, per così dire, spagnola a metà, per meglio dire. In effetti potrebbe benissimo richiedere la nazionalità spagnola se volesse, essendo nata tecnicamente in Spagna, ossia Gibilterra. Ha il tipo spagnolo, piuttosto scura, una vera bruna, nera di capelli. Io, per quel che mi riguarda, sono fermamente convinto che il carattere dipende dal clima. Ecco perché le ho chiesto se scriveva le sue poesie in italiano. I temperamenti che abbiamo trovato alla porta, si intromise Steven, erano molto appassionati per via di 10 scellini. Roberto ruba roba sua. Perfettamente, fece eco Mr. Bloom. E poi, disse Steven con lo sguardo fisso e divagando per sé o qualche altro ascoltatore ignoto. Abbiamo l'impetuosità di Dante e quel triangolo isoscele, Miss Portinari, di cui egli si innamorò, e Leonardo e San Tommaso Mastino. Ce l'hanno nel sangue, acconsentì immediatamente Mr. Bloom. Sono tutti lavati nel sangue del sole. Una coincidenza, sono capitato proprio oggi al museo di Kildare Street, poco prima del nostro incontro, se così posso chiamarlo, e stavo dando un'occhiata a quelle statue antiche che ci sono. Proporzioni meravigliose, delle anche, del petto. Qui non le capita mai di imbattersi in donne come quelle. Un'eccezione di quando in quando. Di belle sì, anche di graziose se si vuole, se ne trovano. Ma quel che intendo io è la forma femminile, e poi hanno così poco gusto nel vestire, la maggior parte, il che dona molto alla bellezza naturale della donna, non c'è che dire. Le calze cadenti, poi, e sarà, lo è forse senz'altro una mia fissazione, sono una cosa che non posso assolutamente sopportare. L'interesse, pertanto, cominciava un tantino a languire tutto intorno, e gli altri presero a parlare di incidenti marittimi, navi sperdute nella nebbia, collisioni con iceberg e via dicendo. Molla l'ancora, naturalmente, aveva da dire la sua. Aveva doppiato il capo diverse volte e si era sorbito un monsone, una specie di vento, nei mari della Cina, e attraverso a tutti i pericoli del mare c'era una cosa, dichiarava, che non lo aveva mai tradito, o qualcosa del genere. Una sua pia medaglia che lo aveva sempre salvato. In tal modo, dopo di ciò, finirono sul naufragio della roccia di Dante, Il naufragio di quella disgraziata imbarcazione norvegese, a nessuno veniva in mente il nome per il momento, finché il fiaccheraio, che veramente assomigliava un po' a Harry Campbell, lo ricordò. Palme! Sulla spiaggia di Butterstown. Ne parlò tutta la città quell'anno. Albert William Kerr compose un bel brano in versi originali di notevole merito sull'argomento per l'Irish Times. Cavalloni che la spazzavano e centinaia di persone sulla spiaggia impietrite dall'orrore. Poi qualcuno disse qualcosa sul caso della nave a vela Lady Cairns di Swansea, speronata dalla Mona, che veniva dalla direzione opposta con un tempo piuttosto brumoso e colata a picco con tutta la ciurma sul ponte. Non si poté darle alcun aiuto. Il suo comandante, quello della Mona, disse che aveva avuto paura per i compartimenti stagni nella collisione, ma non aveva acqua nella stiva, almeno pare.